ingenuo ancor, chiesi alla mamma che mai farò. Quando più grande diventerò, lei mi rispose allora, che sarà, sarà, e ciò che succederà, nessuno saper potrà, che sarà, sarà, e nessuno lo sa. Al fin mi innamorai e dal mio amore io domandai: saran felici i nostri cuori? Lui mi rispose allora: che sarà, sarà, e ciò che succederà nessuno saper potrà. Che sarà, sarà, e nessun lo sa. Oggi il mio bimbo che è un tesoro mi chiede sempre cosa farò. Quando più grande diventerò, rispondo allora non so. Che sarà, sarà, ciò che succederà, nessuno saper potrà, che sarà, sarà, e nessuno lo sa.